Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Jazz on megahertz. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Veroni da Salpinaz. Oggi si potrebbe dire che il tema è le nuove strade dell'esotismo. In sostanza l'esotismo è stato una componente presente fin dall'inizio della storia del jazz. Penso per esempio a come veniva visto il jazz dalla intelligenza europea, comunque dal mondo della cultura musicale europea, musicisti come Puccini o Stravinsky o Debussy e via via tutti gli altri, cioè un qualcosa di esterno. E quello che avviene adesso nel jazz, che nasce di per sé come incrocio tra provenienze culturali diverse con una origine africana, comincia a diventare anche qualcosa di molto più allargato. In pratica la cultura jazzistica, tra virgolette, si diffonde anche in Europa negli ultimi anni, anzi le pagine, tra le pagine più interessanti scritte in questa musica ci sono appunto le varie componenti europee che appunto risultano tra le più importanti. Ma non solo, anche si può andare anche oltre l'Europa. E quello che sta accadendo negli Stati Uniti specialmente è che le seconde o terze generazioni cominciano a cercare una via per a riaffermare la propria cultura di provenienza in un punto d'incontro con comunque l'espressione del jazz, che rimane anche la scelta con la quale questi musicisti si esprimono. Sono ormai diversi gli esempi, abbiamo già ascoltato in diverse occasioni queste esperienze che non diventano inconsapevoli, oppure come poteva essere anche gli omaggi fatti da Duke Ellington o da Art Blakey per quanto riguarda le percussioni africane, cioè questi tentativi di rilettura ricercando il linguaggio altrui, ma proprio riappropriandosi di un linguaggio d'incontro tra la propria provenienza e quella del jazz. Un esempio, ne ascoltiamo tre esempi solo perché sono dischi usciti recentemente, insomma, diciamo nell'ultimo anno. Il primo dal quale ascoltiamo un brano è un personaggio interessante, curioso anche da un punto di vista della sua storia personale. Si tratta di Gilad Atzmon, un israeliano che gli israeliani ormai è frequente incontrare israeliani che suonano jazz, ma questa storia è un po' particolare perché Atzmon è un militante filo palestinese, e quindi la cosa non è che gli ha portato una gran fortuna in Israele. Praticamente è uscito, praticamente scappato da Israele, non può neanche tornare perché lo arrestano, e vive in Inghilterra ormai da molti anni, un musicista che ha passato la cinquantina, lavorando, tra l'altro un ottimo sassofonista, e lavorando oltre che con gruppi propri con molti musicisti del mondo pop rock, penso a Paul McCartney oppure ai Pink Floyd, una lunga collaborazione, quella con Robert Wyatt, del quale si è reso interprete anche di rielaborazioni musicali nei suoi brani. È sicuramente un sassofonista con una preparazione, con una vena coltraniana profonda, un bellissimo suono nei suoi strumenti, suona un po' tutte le categorie di sax e anche di clarinetti. Appunto anche quest'anno è uscito un suo lavoro con l'Orient House Ensemble, dove appunto fa omaggio anche alla propria cultura di provenienza o comunque all'ambiente culturale del suo paese. Questo è un brano che è intitolato Gaza Mon Amour, non so, può essere evocativo, direi. Questo era Gilad Atzmon con il suo Orient House Ensemble, disco intitolato The Whistle Blower, è uscito pochi mesi fa. Il altro musicista che appunto ricerca la sua origine, ma in questo caso si può dire ancora in modo più marcato, qui passiamo negli Stati Uniti, l'ambiente è abbastanza analogo, quello della PI Records, Amir El Safar, musicista che ha più o meno una quarantina d'anni, ha iniziato la sua attività come trombettista soprattutto legato all'arbop o comunque qualche forma evolutiva dell'arbop, comunque, quindi un mainstream, che negli ultimi tempi, negli ultimi anni, ha sempre di più ricercato una propria strada per evocare anche quello che è la propria cultura di provenienza, che è la irachena, i genitori, il padre iracheno, la madre americana. Quindi questa ricerca lo sta conducendo sempre di più a cercare, a trovare delle nuove strade. Il disco precedente della PI era stato decisamente positivo, un ottimo risultato. Direi che anche in questo caso, nell'ultimo lavoro uscito poche settimane fa, si chiama Crisis. Crisis mi piace anche pensare che è evocativo di un periodo importante di Ornette Coleman, perché comunque questi musicisti che ripercorrono o vanno a trarre le proprie radici anche nell'ambito medio orientale o arabo comunque, si esprimono con molta facilità trovando dei punti di contatto anche con la lirica di Ornette Coleman. E forse questo potrebbe anche far riflettere sulle analogie da un punto di vista proprio musicologico tra Ornette Coleman e la musica araba. E adesso ascoltiamo un paio di brani presi da questo disco. La formazione, oltre a Amir El Safar, la tromba anche al canto e al santur, Ole Manstein al tenore, al sax, al basso Carlo De Rosa e poi strumenti oud e percussioni Tarek Abouji e Zafer Tawil e alla batteria invece più consolidato Nashed Waits. Ascoltiamo questi due brani. Thank you. يا حمام الدوح يا حمام الدوح يا حمام الدوح غر الطربا واشتما شئت حجازا وصبا وهب الدهر لنا لذته وهب الدهر لنا لذته واسترد الدهر ما قد وهب واسترد واسترد الدهر ما قد وهبا Questo era Crisis di Amir El Safar, ultimo lavoro uscito per la P Records, e un disco anche interessante da altri punti di vista. Ad esempio, lo stesso tema viene ripercorso per tutto il disco, con versioni diverse, con atmosfere anche leggermente diverse, diciamo che sono variazioni abbastanza limitate, ma ad esempio, come abbiamo ascoltato, anche l'utilizzo dei quarti di nota, infatti questo senso di tonalità incerta che viene trasmesso dalla tromba, che in altri momenti invece si sviluppa in modo canonico, come sulle 12 note. E quindi questo è un esempio di una ricerca della propria radice, di quello che può comportare anche l'elaborazione jazzistica della propria radice medio orientale, come peraltro anche un altro musicista che collabora frequentemente con Amir El Safar, ed è Hafez Modirzadeh. E Modirzadeh di qualche anno più anziano, sono già parecchi anni che lavora negli Stati Uniti, è di origine iraniana, ma nato anche lui negli Stati Uniti. Il disco uscito qualche mese fa, insomma diciamo comunque nell'ultimo anno, è anche in questo caso una rielaborazione di questi tipi di linguaggio, però con una personalità diversa. Ad esempio, c'è un'attenzione maggiore a quello che è il mondo della musica classica, e quindi sono atmosfere diverse che risentono della musica orientale, ma che percorrono anche strade più complesse, che si avvicinano ad esempio anche alla musica latinoamericana, oppure ai paesi arabi o al jazz tout court. Insomma, quindi anche in questo caso una ricerca di una personalità complessa che si esprime, direi, in modo molto interessante in questo caso. Il disco è intitolato In Convergence Liberation. Questa formazione vede anche la presenza alla tromba di Amir El Safar. Quindi Modirzadeh suona le varie anse, dal soprano al contralto, al tenore, ai flauti, clarinetti, eccetera, nei, carna, insomma, quindi questi strumenti orientali oltre agli strumenti canonici. Poi si aggiungono voci, violini, ecco, una schiera nutrita di violini e anche di percussione. Ascoltiamo alcuni momenti di questo bel disco, di questo disco diciamo interessante, che aggiunge qualcosa diciamo al panorama musicale internazionale. Thank you. huella de su vida. Thank you. es como ha de estar templada la que vuestro amor pretende. Si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada, dan vuestras amantes penas a sus libertades. Las malas, las queréis hallar muy buenas. Nada Questo era l'ultimo lavoro di Hafez Modirzadeh, titolato In Convergence Liberation, un disco uscito per la PI Records, che vede una formazione mista tra, diciamo, uno spirito jazzistico e uno spirito più medio orientale. Era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione, anche tutte le indicazioni sui dischi ascoltati, le potete trovare nel nostro sito radiocittafujiko.it alla sezione playlist. Salve a tutti, alla prossima. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Alla console Sandro e Alfredo.